Cantieri di Carità e Giustizia. Torniamo a parlare di Cantieri di Carità e Giustizia in attesa di conoscere e incontrare le diverse realtà che hanno contribuito alla compilazione del quaderno numero 1 che è stato presentato qualche giorno fa nel convegno di studio che si è svolto in comune a Padova. Abbiamo al telefono una delle persone che sta collaborando a questo progetto, sono Francesca Fiorese, che è responsabile dell'ufficio diocesano di pastorale sociale e della lavoro. Buongiorno, sono Francesca. Buongiorno a tutti. Allora, tu da tempo ti occupi di questi temi, appunto, di pastorale sociale del lavoro. Questo progetto Cantieri di Carità e Giustizia è un progetto molto ampio, ricordiamo che parte da un'idea del Vescovo Claudio. Vuoi ricordarci tu a che punto siamo di questo progetto iniziato la scorsa estate? Siamo nella seconda tappa del progetto. La prima tappa ha visto protagoniste i soggetti storici della carità in Padova e ci ha dato l'occasione anche con il convegno di sperimentare e toccare dal vivo quanto bene è capace la città e da sempre. Nella seconda tappa che stiamo ancora realizzando e speriamo di confezionare in un secondo quaderno, il primo quindi della storia, il secondo del presente della carità e della giustizia in Padova, si sta ancora realizzando con la raccolta dei dati di quanti operano nel volontariato per offrire un quotidiano migliore alle persone che si trovano in una situazione di indigenza o di ingiustizia. Il prossimo quaderno verrà distribuito in occasione della Via Crucis cittadina, che avrà appunto richiamerà nel suo titolo l'impegno di continuare i cantieri di carità e giustizia. Come già annunciato, poi la terza tappa avrà un suo sviluppo nel lavoro dei soggetti che nel presente operano nella carità e nella giustizia per provare insieme ad elaborare idee nuove, idee che possano concretizzarsi in una forma rispondente ai bisogni di oggi. E il bisogno che sorge dal povero, ma anche da chi si dispone a risollevare dalla povertà, è che la povertà è di tutti se non rende protagonisti tutti. È povero chi aiuta, è povero chi viene aiutato. Se insieme non si diventa protagonisti nel vincere la povertà che è di ogni tipo. E questa è un po' l'azione che stiamo portando avanti. È un'attività che permette di vedere quanto una città può essere capace sia di privarsi della sua bellezza sia di restituirsela. E il segreto sta proprio nel poter uscire da sé per lasciarsi aiutare ad aiutare e lasciarsi aiutare ad aiutarsi. Posso chiederti, sor Francesca, così un piccolo commento personale, nel senso, lavorando a questo progetto, appunto, in cui si è andati a guardare il passato, perché è giusto vedere, riconoscere quanto è stato fatto, non per dire che bravi siamo, ma per essere anche oggettivi poi nell'affrontare la questione. A te, della parte del passato, o anche se vuoi di quello che c'è adesso, del presente, quindi alla fase dove siamo arrivati, personalmente qual è la cosa che ti ha colpito di più, che magari non conoscevi, perché magari molte azioni di carità le si conoscono, le conoscono un po' tutti. A te cosa ha colpito come sorpresa? La sorpresa per me è completa, essendo che non sono padovana, quindi è il numero anche di attività che c'è, il numero di volontari, di persone che si dedicano a rendere bella la città, e quindi già il dato quantitativo. Dall'altra parte quello che stupisce è il coraggio che forse oggi invece rispetto al passato può rimanere un po' più nascosto, il coraggio di osare. Osare anche piccoli gesti, osare nel quotidiano, osare senza, appunto, non posso vedere quel che sarà, ma oso per il bene. Ecco, questo è la cosa che mi ha sbalordito e che nelle attività del passato. E oggi invece ci appoggiamo un po' di più a quello che già nel passato è stato costruito e osiamo meno. Forse oggi quello che dobbiamo costruire non è proprio davvero qualcosa di fisico, ma è un qualcosa di relazionale e stabile che abbiamo da dover costruire. Grazie a Sor Francesca Fiorese, responsabile dell'Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale del Lavoro. Dalla prossima settimana contiamo di iniziare a contattare, a conoscere appunto le diverse realtà. Sono una decina che hanno già contribuito a raccontare, a raccontarsi nella loro opera ultrasecolare di carità a Padova. Cantieri di Carità e Giustizia.